Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Macumba. Macumba. Gira. Gira. Vota. Vota. E furria. E furria. Tutto sommato ammetto. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova immigrazione. Oggi, prima puntata della nuova stagione che inauguriamo con una storia davvero imperdibile. Una storia che arriva dritta da quello straordinario mondo innovativo che è la Silicon Valley. Prima però menzione d'obbligo per Gira, Vota e Furria, video del cantautore gelese Walter Piva dedicato a tutti i siciliani che hanno dovuto lasciare la propria terra per studio o lavoro. Il video della canzone ha coinvolto centinaia di giovani emigrati dell'isola. La frase della settimana è copyright di Renzo Piano, architetto e senatore a vita. Con le sue parole cominciamo la nuova stagione. Il nostro è un paese di talenti straordinari, i giovani sono bravi e se non lo sono lo diventano per forza. Siamo tutti nani sulle spalle di un gigante. Dico ai giovani di non rassegnarsi alla mediocrità, di viaggiare per imparare le lingue e per capire gli altri e comprendere che la diversità è un valore, non un problema. Così Renzo Piano. Memorandum post vacanze. Il governo deve occuparsi innanzitutto di lavoro, a chiederlo un giovane su tre, secondo un'indagine di Link Campus University. Disoccupazione, retribuzione insufficiente e precarietà dell'impiego rappresentano il 42% delle paure dei giovani nella penisola. Il lavoro è il perno del funzionamento di ogni sistema, rileva il centro studi Confindustria, in un paese con quasi 8 milioni di senza lavoro. E al proposito apriamo una rapida riflessione sulla garanzia giovani che veleggia ormai intorno agli oltre 190.000 iscritti. Solo 30.000 però i colloqui di orientamento e solo 16.000 gli impieghi effettivamente disponibili, il 70% a nord. Una partenza al rallentatore geograficamente squilibrata. Interessante riguardo la ricerca dell'Istituto Toniolo sugli effetti di garanzia giovani. Solo il 37% dei giovani intervistati pensa che migliorerà molto o abbastanza il rapporto col mercato del lavoro. Prevalgono gli scettici con un 54% che afferma che cambierà poco o nulla. Anche per questo l'80% degli intervistati si dice pronto a espatriare. Torneremo a occuparci di questo tema tra poche settimane. Bisogna ripartire ai giovani, ai giovanissimi, inculcare la filosofia del rischio e di non mollare mai, perché purtroppo in Italia la prima difficoltà molta gente abbandona. Invece no, la perseveranza, la determinazione è la cosa fondamentale. Vincenzo Di Nicola, 34 anni, è ingegnere start-upper diviso tra Stati Uniti e Italia. La sua è stata una delle storie di maggior successo tra i giovani italiani in Silicon Valley. Silicon Valley dove si recherà domani anche il premier Renzi. Della storia di Vincenzo, con finale a sorpresa, parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Cala l'immigrazione dall'Italia, aumenta l'emigrazione dalla penisola, a certificarlo l'Istat. Le immigrazioni dall'estero scendono a 307.000, aumentano invece le emigrazioni dei cittadini italiani e stranieri 126.000. Il saldo migratorio con l'estero è di 182.000 unità. L'Istat conferma nel 2013 la destinazione estera favorita dagli italiani è stata la Gran Bretagna, seguita dalla Germania. Sono invece limitati i ritorni in patria di cittadini italiani, mediamente intorno ai 30.000 casi negli ultimi 6 anni, con una leggera tendenza verso un'ulteriore diminuzione. La testimonianza delle difficoltà incontrate nella penisola risulta in crescita l'andamento degli espatri, da 40.000 nel 2008 a oltre 82.000 nel 2013. Sempre secondo l'Istat, nel decennio 93-2012 ben 2.400.000 individui hanno spostato la residenza dal mezzogiorno al centro-nord, mentre poco più della metà ha effettuato il tragitto inverso. E tra il 2007 e il 2011 il numero di studenti italiani iscritti in università straniere è aumentato del 51%, passando a 62.000. Chi può si rivolge sempre più oltre confine per trovare opportunità di realizzazione sociale, lo afferma il Censis. E c'è anche chi studia all'estero grazie a Erasmus. I dati diffusi dalla Commissione Europea rivelano che gli studenti italiani che ne hanno beneficiato nell'ultimo anno sono cresciuti del 10%, quasi 26.000 partenze. Privilegiata la Francia, seguita da Gran Bretagna e Germania. L'Italia patisce anche nel settore Erasmus un deficit tra arrivi e partenze pari a circa 6.000 unità. Continuiamo oggi a raccontarvi storie di controesodo. Vi presentiamo quella di Simone Pedrini, 28enne imprenditore start-upper, rientrato in Lombardia grazie anche al bando Alimenta Your Talent del comune di Milano. Il progetto si chiama Flora Conservation. Simone lo spiega così. Flora Conservation è un'azienda agricola che produce piante e sementi di specie erbacee autoctone. Questo significa che noi, in collaborazione con l'Università di Pavia, raccogliamo i semi dalle popolazioni naturali sul territorio italiano e da quei semi poi facciamo delle piante che possono essere usate per recuperi ambientali o per il verde urbano o anche per il verde privato.

con il progetto Italiani di Frontiera. Io ho vissuto un periodo lungo lì e ho avuto la possibilità di realizzare un po' una vetrina di quelli che sono gli italiani di Silicon Valley. Qual è la differenza rispetto anche all'inizio del mio progetto del 2008? Che questo ponte con Silicon Valley è sempre più un ponte di andata e di ritorno. E ovviamente il caso di Vincenzo è straordinario. Però la voglia di tornare e di poter restituire al paese da cui si è partiti qualche cosa, ecco, penso che sia innata. Devo dire che tre quarti degli italiani, anche dei veterani che ho incontrato, la maggior parte di loro, penso, a parità di condizioni sicuramente avrebbero voluto sviluppare quello che hanno fatto in Italia rispetto agli Stati Uniti. E come dice il mio progetto, il problema vero è sempre un problema culturale. E quindi questo concetto del give back, del restituire qualche cosa dopo il successo, per esempio, è qualche cosa che è abbastanza estraneo alla nostra cultura ed è fortissimamente legata alla matrice protestante. Non vuol dire soltanto un senso di dovere nei confronti degli altri, ma vuol dire anche che il valore di quello che tu hai fatto aumenta e viene esaltato dal fatto che tu lo possa condividere. Questo è un modo di pensare che purtroppo non è strano, esatto, non è strano, nella invece cultura. Questo ponte di andata e ritorno io spero che possa anche portare questo tipo di valore, quindi diffondere in Italia anche questo. E Roberto, con te vogliamo anche avviare un discorso che intendiamo poi approfondire nelle prossime puntate. Secondo te ha ancora senso parlare di immigrazione o fuga dei talenti, o non dobbiamo piuttosto cominciare a chiamarla circolazione, anche partendo dal nostro interscambio, dicevi tu poco fa, con la Silicon Valley? Ma sicuramente. Io vorrei ricordare che quando nel 2008 ho avuto la fortuna di fare due lunghi colloqui con Federico Fagino, il padre del microchip, la figura forse principale degli italiani a Silicon Valley, per spiegarmi il successo di Taiwan negli ultimi 30 anni, lui ha spiegato appunto che la base di quel successo è stato questo ponte di ritorno. Lui è arrivato in California negli anni 70, quando, a fine anni 60 addirittura, quando Taiwan era poco più di terzo mondo, e dice: se una generazione dopo sono diventati un colosso, è perché le centinaia di studenti che io ho visto venire da quello che allora era un paese del terzo mondo, che studiavano e si laureavano a Stanford, Berkeley, aprivano aziende in California, poi sono tornati nel loro paese, facendo capire che tutto il miracolo di Taiwan è stato basato sul fatto di cosa? Che questi che sono tornati hanno fatto dei ponti d'oro e loro hanno costruito il miracolo di un paese che in una generazione è esploso. È evidente che i paesi che vinceranno questa sfida della globalizzazione saranno quei paesi che sapranno attirare l'oro grigio, i cervelli, i talenti veramente più innovativi. Come vedi uscire l'Italia da questa competizione? È veramente, c'è bisogno di una rivoluzione culturale. Il potenziale è straordinario, non solo degli italiani che fanno cose fantastiche all'estero, ma anche molti italiani che, per quanto a fatica, riescono a fare delle cose straordinarie. Qual è l'opportunità? Bisogna prima di tutto saper raccontare, ispirare, raccontare di quelli che sono fuori, raccontare di quelli che sono qua, quindi dare molta più visibilità a chi può essere d'esempio. Una domanda rapida per entrambi, partendo da Vincenzo: quanto vedete un'Italia che intende realmente cambiare passo entrando in un contesto globale e moderno? Purtroppo, a parte poche eccezioni, non ho visto un cambiamento di passo. Secondo me bisogna ripartire dai giovani, ai giovanissimi, inculcare la filosofia del rischio e di non mollare mai, perché purtroppo in Italia la prima difficoltà molta gente abbandona. Invece no, va la perseveranza, la determinazione è la cosa fondamentale. A Roberto aggiungo, ma è un problema anche di cambiare classe dirigente? Sicuramente, ma è sempre un problema nel modo di pensare. E questo, quindi, raccontare, condividere, ci dà oggi delle opportunità che prima non c'erano. Quella è la possibilità che abbiamo adesso. Noi possiamo conoscere molto rapidamente e condividere con storie di persone che sono qua e all'estero, e quindi amplificare l'impatto che hanno queste storie. E questo ponte, ripeto, io parlo di Silicon Valley, ma non solo, il fatto che sia un ponte di andata e ritorno è sempre più importante, perché sempre più persone che fanno esperienze all'estero possono tornare e portare queste conoscenze. Qua secondo me c'è un bisogno disperato di questo modo di pensare diverso. Siccome abbiamo tantissimi esempi da raccontare, dobbiamo raccontare, ispirare, riuscendo anche un po' a emozionare. Grazie Roberto Bonzio di Italiani di Frontiera. Domanda finale per Vincenzo Di Nicola: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Di farlo, assolutamente. Se tu fossi un giocatore di calcio, tu vorresti giocare dove oggi? Nel Barcellona, nel Real Madrid, non certo nel Poggi Bonzi, con tutto il rispetto. Ma neanche la nostra storia è piena di esempi. Cavour, per esempio, studiò in Inghilterra e quando tornò rivoluzionò il sistema agrario, industriale del Piemonte. Lo stesso Garibaldi, quando tornò, applicò le tecniche di guerriglia in Italia. Alla fine si impara all'estero, l'importante è imparare ai migliori e tornare per applicare il know-how che hai preso all'estero. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un capo dell'amministrazione per la Global Navigation Satellite Systems Agency, sede di Praga, Repubblica Ceca, scadenza per i CV dopodomani, email a jobs@gsa.europa.eu. Consigliere legale per ScanSource Europe a Bruxelles, scadenza per CV 2 ottobre, info su scansource.eu. E infine un ingegnere nucleare per l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a Vienna. Scadenza per il CV 5 ottobre, info su recruitment.iaea.org. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi torniamo all'estero e torniamo a occuparci delle centinaia, se non migliaia, di associazioni di professionisti italiani espatriati. Questa settimana tocca alla Francia, dove si è da poco costituita RESIF, la rete dei ricercatori italiani oltre Alpe. Ce ne parla Borna Scognamiglio, dottorando di ricerca e vicepresidente di RESIF. RESIF, che è l'acronimo di Réseau des chercheurs italiens en France, quindi la rete dei ricercatori italiani in Francia, nasce da due constatazioni. Una è che al CNRS, che è l'istituto di ricerca francese, l'Italia è la nazione straniera più rappresentata. E in seguito perché molto semplicemente quando camminiamo nei corridoi e nelle aule delle università in Francia, diciamo che si incontrano sempre più italiani. È un'onda crescente in qualche modo di emigrazione di ricercatori in Francia? Questo sicuramente sì, magari anche data la vicinanza geografica e magari anche culturale rispetto alla Francia, e negli ultimi anni sicuramente, parlo anche per esperienza personale, è un fenomeno in grande crescita, sì. Fare network è un concetto a volte poco italiano, voi invece lo fate all'estero con quali obiettivi? Attirare i ricercatori, i professori, i dottorandi e anche gli studenti italiani provenienti da ogni ambito disciplinare per cercare proprio di fare rete, quindi di riunirsi e cercare di portare avanti delle problematiche e dei progetti insieme in un ambito di valorizzazione del ricercatore, in un ambito socio-economico. Qual è l'identikit, il profilo medio di un ricercatore di RESIF? Diciamo, ci sono ricercatori più giovani, ma anche professori, quindi di prima o di seconda fascia, quindi è un ambiente molto vario. Quindi in qualche modo potete anche essere un primo punto di contatto per un giovane ricercatore che viene in Francia. Assolutamente, diciamo, è uno degli obiettivi dello statuto. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.resif-association.com. Un motivo per restare. O tornare. Con la decreto cultura legge da 2 mesi arrivano numerose misure a favore dei giovani, tra queste la possibilità per istituti e luoghi della cultura di assumere a tempo determinato professionisti under 40, la possibilità di concedere beni demaniali in uso gratuito per 7 anni a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da giovani under 35, infine la concessione dal 2015 delle agevolazioni fiscali previste per le start-up anche a imprese turistiche create da under 40. Per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti, la stringa del mese è liberalizzazioni, dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di settembre, tema liberalizzazioni. Quanto un'economia ingessata danneggia i giovani e le loro prospettive di carriera, come liberalizzare l'economia italiana e aprire nuovi spazi, evitando la fuga dei giovani all'estero, questo governo ha fatto abbastanza? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto i vostri contributi via email. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.